بسم الله خير الأسماء. Nel nome di Allah, il meglio dei nomi. Bismillahi Rabbil Ardi wa Rabbis Samawat. Nel nome di Allah, Signore della terra e dei cieli. Bismillahi Alladhi la yadurru ma'asmihi shay'. Nel nome di Allah, insieme al nome del quale nessuna cosa produce danno. Fil ardi wa la fis sama. Nella terra e nel cielo. Wa huwa as-Samiul 'Alim. Egli è colui che tutto ode e tutto sa.